Ecco i figli di Israele, secondo il loro numero, i capi dei casati, i capi di migliaia e di centinaia e di loro ufficiali, al servizio del re per tutto ciò che concerne le classi, quella che usciva e l'altra che entrava, mese per mese, durante tutti i mesi dell'anno. Ogni classe comprendeva 24.000 uomini. A capo della prima classe, per il primo mese, c'era Jasobeam, figlio di Zabdiel. La sua divisione contava 24.000 uomini. Appartenente ai discendenti di Perez, comandava tutti gli ufficiali dell'esercito per il primo mese. Alla classe del secondo mese presiedeva Dodo di Akok. La sua divisione aveva 24.000 uomini. Capo del terzo gruppo per il terzo mese era Benaia, figlio di Joiada, sommo sacerdote. La sua classe comprendeva 24.000 uomini. Questo Benaia era un prode dei 30 e aveva il comando dei 30 e della sua classe. Suo figlio era Ammizabad. Il quarto capo per il quarto mese era Asael, fratello di Joab, e dopo di lui Zebadia, suo figlio. La sua classe era di 24.000 uomini. Il quinto, per il quinto mese, era l'ufficiale Sameut lo Zerachita. La sua classe comprendeva 24.000 uomini. Sesto, per il sesto mese, era Ira, figlio di Ikkes di Tekoa. La sua classe comprendeva 24.000 uomini. Settimo, per il settimo mese, era Chelez, il Pelonita, dei discendenti di Efraim. La sua classe contava 24.000 uomini. Ottavo, per l'ottavo mese, era Sibbecai di Cusa, lo Zerachita. La sua classe comprendeva 24.000 uomini. Nono, per il nono mese, era Abiezer di Anatot, un beniaminita. La sua classe era di 24.000 uomini. Decimo, per il decimo mese, era Marai di Netofa, lo Zerachita. La sua classe comprendeva 24.000 uomini. Undicesimo, per l'undicesimo mese, era Benaia di Piraton, dei discendenti di Efraim. La sua classe contava 24.000 uomini. Il dodicesimo, per il dodicesimo mese, era Keldai di Netofa, della famiglia di Otniel. La sua classe comprendeva 24.000 uomini. Riguardo alle tribù di Israele, sui Rubeniti presiedeva Eliezer, figlio di Zicri. Sulla tribù di Simeone, Sefatia, figlio di Maaca. Su quella di Levi, Casabia, figlio di Chemuel. Sugli Aronnidi, Zadok. Su quella di Giuda, Eliu, dei fratelli di Davide. Su quella di Issacar, Omri, figlio di Michele. Su quella di Zabulon, Ismaia, figlio di Abdia. Su quella di Neftali, Ierimot, figlio di Azriel. Sugli Efraimiti, Osea, figlio di Azazia. Su metà della tribù di Manasse, Gioele, figlio di Pedaia. Su metà della tribù di Manasse, in Galaad, Iddo, figlio di Zaccaria. Su quella di Beniamino, Iaasiel, figlio di Abner. Su quella di Dan, Azarel, figlio di Ierocam. Questi furono i capi delle tribù di Israele. Davide non fece il censimento di quelli al di sotto dei 20 anni, perché il Signore aveva promesso di moltiplicare Israele come le stelle del cielo. Joab, figlio di Seruia, aveva iniziato il censimento, ma non lo portò a termine. Per esso si scatenò l'ira contro Israele, ed il numero non fu riportato nel libro delle cronache del re Davide. Ai tesori del re era preposto Azmavet, figlio di Adiel. ai tesori che erano nella campagna, nelle città, nei villaggi e nelle torri, presiedeva Gionata, figlio di Uzia. Sugli operai agricoli che coltivavano la campagna era preposto Ezri, figlio di Chelub. A capo delle vigne c'era Simei di Rama, mentre Zabdai di Sefan era preposto alle riserve di vino. Agli oliveti e dai sicomori che erano nella Sefela era addetto Baal Canan di Gedara. Ai depositi di olio, Ioas. Sitri il Saronita era preposto al grosso bestiame che pascolava nella Sefela, mentre Safat, figlio di Adlai, sorvegliava il grosso bestiame delle altre vallate. Ai cammelli era preposto Obil, l'Ismaelita. Delle asine era responsabile Yekdaia di Meronot. Al bestiame minuto era addetto Iaziu Lagareno. Tutti costoro erano amministratori dei beni del re Davide. Gionata, zio di Davide, era consigliere, uomo intelligente e scriba. Egli, insieme con Jechiel, figlio di Cacmoni, stava con i figli del re. Achitofel era consigliere del re. Cusai l'archita era amico del re. Ad Achitofel successero Ioiada, figlio di Benaia, ed Ebiatar. Joab era capo dell'esercito.